Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Una volta la provincia di Cosenza era considerata una provincia babba, una di quelle in cui la criminalità organizzata non avrebbe mai attecchito. E invece a Paola, che molti conoscono per il suo mare un tempo splendido e per il suo litorale un tempo scevro da un deplorevole sacco edilizio, due targhe con il nome di Luigi Gravina, ucciso nel 1982 da esponenti di un clan dell'Andrangheta per essersi opposto a richieste estorsive, sono state danneggiate. I fatti si sono verificati il 30 dicembre e a cavallo di Capodanno. Le targhe del ponte Luigi Gravina, martire per la libertà, sono state danneggiate per la prima volta il 30 dicembre, appunto, da qualcuno che ne ha forzato i sostegni girando le scritte rispettivamente verso mare e verso monte, in modo tale da non consentirne la lettura ai passanti. Il ponte dedicato a Gravina, ricordiamolo, è stato inaugurato il 28 dicembre scorso, quindi pochi giorni fa. L'amministrazione prontamente, il giorno dopo, ha risistemato le targhe, ma i malviventi non si sono persi d'animo e nella notte di Capodanno hanno ripetuto il sabotaggio. Al fine di scongiurare altri episodi, la giunta sta pensando di installare telecamere nascoste al circuito chiuso. Da Cosenza a Reggio il passo è breve. A Caulonia, quando l'eco dei botti di Capodanno non si era ancora spento, un ordigno è stato fatto esplodere davanti all'ingresso di un locale che il gruppo cooperativo Goel stava predisponendo come laboratorio di inserimento lavorativo per gli immigrati rifugiati presenti nei propri progetti di accoglienza. Il locale danneggiato, che ha avuto le porte divelte dall'esplosione, era stato affittato da Goel con l'intenzione di avviare un ristorante multietnico dove preparare e inserire al lavoro gli ospiti dei progetti di accoglienza, e l'apertura è ormai imminente. È proprio vero che la criminalità non guarda proprio in faccia a nessuno. Buona vita e a domani.